interessante e di grande livello, di grande spessore dal punto di vista culturale, come la musica, e con la vostra professionalità, il vostro canto, con l'accompagnamento. Ringrazio ancora anche il nostro Cristian, perché ci vede bene, mi devo anche Cristian Contarino, e ringrazio ancora la signora Loredana Merlini e Cinzia Buttelli, che, con le quali ci conosciamo da più tempo. La biblioteca è un luogo, un terzo luogo, diciamo, dove le persone, ci auguriamo, continuino a venire, a frequentarlo, ad usare questo luogo e soprattutto anche a co-creare delle occasioni, come è stato in questo caso quando la professoressa Buttelli è venuta a trovarci e ha proposto un'iniziativa di questo genere, che per noi era di grande respiro. Ci siamo un po' preoccupati all'inizio come organizzare da un punto di vista logistico anche un intrattenimento musicale, perché è un po' complicato anche quell'aspetto lì, però siamo riusciti, e vi ringrazio tantissimo per la vostra flessibilità e la collaborazione che ci avete messo anche in questo aspetto organizzativo. Dall'altra l'abbiamo voluto legare anche a degli aspetti bibliografici e abbiamo scoperto che, per esempio, Valdimaro Fiorentino, già in tempi molti anni fa, aveva provato a fare una prima ricognizione storica locale, no? Esatto, e qui l'abbiamo voluto, ci ha fatto piacere ritrovare questi libri e metterli a vostra disposizione nel caso qualcuno avesse piacere di leggere e vedere cosa Valdimaro Fiorentino era riuscito a scoprire, individuare. C'è anche una foto per vedere, individuare cosa faceva la Merlin, ecco, tanti anni fa. Vedremo la Loredana, la troviamo. Quindi questo è un aspetto interessante. Poi abbiamo anche alcuni altri libri che riguardano sempre le donne, è un tema che ci tocca da vicino anche come biblioteca, perché in questi anni si sta impegnando nel raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030. Fra i vari obiettivi c'è la parità di genere, l'uguaglianza, e quindi anche in questo modo cerchiamo di restituire una certa, di riportare a galla una professionalità, un atteggiamento e una, così anche dei talenti che riguardano il mondo femminile, che spesso, come è dimostrato dalla storia, sono nascosti, non sono diciamo conosciuti. Ecco. La biblioteca, grazie anche alle persone che aiutano a trovare delle nuove vie di conoscenza, ci tiene a sperimentare le nuove strade e far sapere, conoscere, approfondire certi temi. Basta, non dico più niente. Abbiamo delle cartoline, per chi non avesse la mail, eccetera, con le iniziative dei prossimi giorni. C'è tutto, vi ringrazio e grazie soprattutto alle nostre ospiti e alle nostre amici. Grazie. Allora, buon pomeriggio a tutti. Mi aggancio subito a quanto detto dalla direttrice Valeria Trevisan. Perché questo concerto? Perché durante gli anni di conservatorio che abbiamo frequentato insieme ci siamo imbattute, grazie alla nostra insegnante di storia della musica Rita Maule, in un mondo sommerso, che è quello della musica scritta dalle donne. Nei manuali di storia della musica, ad esempio nel celeberrimo Breve storia della musica di Massimo Mila, che è un monumento della musicologia, tuttavia non compare nessuna compositrice. In quelli più recenti va un po' meglio, ma poca roba. E in realtà noi abbiamo scoperto che le donne hanno sempre composto musica, hanno suonato strumenti e cantato, anche se per molto tempo è stato loro proibito. Per esempio, sicuramente le monache nei monasteri, specialmente quei monasteri di clausura che erano chiusi all'esterno, componevano, cantavano, suonavano, e quindi lì sappiamo che probabilmente c'è un patrimonio di musica sacra che per la gran parte resta ancora sconosciuto. E poi abbiamo l'esempio delle famose putte, ovvero le orfanelle veneziane, che venivano erudite nella musica e cantavano, costituivano un coro che faceva delle tournée in tutta Europa, erano conosciutissime, però avevano delle limitazioni enormi, era proprio previsto che non potessero eseguire pezzi di altri. Ora, chi potevano essere questi altri se non loro stesse, che di nascosto evidentemente componevano musica, e probabilmente musica molto valida perché erano delle musiciste fatte e finite. Quindi le donne si sono sempre occupate di musica, hanno sempre voluto produrre musica, ovviamente con grandi difficoltà. Alcune, ma veramente poche, furono sostenute magari da padri illuminati. E pensiamo a Francesca Caccini o a Barbara Strozzi, ma la gran parte di loro dovette invece contrastare proprio il volere di padri, madri, fratelli, mariti, perché il ruolo di compositrice non si addiceva ad una donna per bene. Ora, a dire la verità, molto lentamente però questa musica stava uscendo dall'ombra. E va notato che per lo più gli studi sulla musica femminile sono condotti da donne, da musicologhe. E comunque lentamente, chiaramente probabilmente una gran parte del patrimonio di musica scritta da donne, non essendo mai stato pubblicato, è andato perduto per sempre. Questo è verosimile. In tutti i casi noi in verità ci siamo imbattute in tante donne, e da Hildegard von Bingen, siamo nel Medioevo, Barbara Strozzi, Francesca Caccini, Isabella Leonarda, Clara Wieck, meglio nota come Clara Schumann, ovviamente, perché è nota col cognome del celebre marito, Fanny Mendelssohn, Annie Beach e molte altre, Sofia Gubaidulina, cioè adesso ne stanno venendo fuori tantissime, e noi infatti abbiamo dovuto fare una scelta, chiaramente. E quindi vi proporremo alcuni pezzi di alcune di queste compositrici, ma magari la ricerca può continuare, e questo può essere solo il primo capitolo di un viaggio nella musica femminile. E qui, più o meno, per capire in che anni ci troviamo, cominceremo da Barbara Strozzi, siamo in pieno 600, e finiremo con Annie Beach, che è a cavallo tra l'800 e il 900. Sì, io volevo dire anche questo. Noi abbiamo iniziato da lì, dove diceva Cinzia, perché la grande difficoltà è anche quella di trovare la musica stampata, no? Quindi molta musica è ancora scritta in neumi e non è stata fatta stampata con una scrittura che noi possiamo eseguire facilmente, e oltretutto gli strumenti anche usati non sono certo questo pianoforte elettrico, che grazie a Christian per fortuna ci può accompagnare, però avremmo dovuto avere tutt'altro, quindi abbiamo dovuto fare una scelta anche per questo motivo. Volevo solo dire una piccola cosa: prima della Strozzi ce ne sono state altre, tantissime. La prima donna ad aver pubblicato musica da lei composta è stata la Maddalena Casulana, una veneziana, nel 1568. E lei sfida il vano errore degli uomini, che si credono i soli padroni degli alti doni dell'intelletto, necessari a comporre, e fa presente che quegli stessi doni alle donne possono medesimamente essere comuni. Quindi era ben consapevole di come stavano le cose, no? Quindi molte donne sono state trattate da cortigiane, da poco di buono, perché non potevano, perché volevano fare qualcosa. Così è stato sia nella musica che anche nella letteratura. Sì, le prime due aree che ascolterete sono appunto di Barbara Strozzi, che è nata a Venezia nel 1619, era la figlia di un fuoriuscito, di un esule fiorentino, Giulio Strozzi, e appunto, come vi anticipavo, grazie al padre poté compiere degli studi di musica niente meno che con Francesco Cavalli, che è stato uno dei più grandi compositori del primo barocco. E il padre poi le creò intorno un gruppo di un pubblico, diciamo così, fondò un'accademia degli unisoni e quindi le creò anche diciamo il pubblico, per cui lei suonava, componeva, suonava e cantava, chiamata la virtuosissima cantatrice, per questo gruppo di amici del padre. Però morto il padre, anche questo è un caso molto raro, riuscì a vivere di musica tutto il resto della sua vita e pubblicò tutta la sua musica, tutte le sue opere, sostenuta fondamentalmente da, diciamo, da regnanti, da nobili, insomma. E sentirete prima Amor Dormiglione e poi Che si può fare di Barbara Strozzi. Thank you. Per piano e arpa ed è dedicata alla regina di Spagna. Isabella Colbran era anche lei spagnola, e era un soprano, una cantante e fu la prima moglie di Gioachino Rossini. Thank you. passiamo oltre e andiamo a questa grandissima interprete dell'Ottocento musicale che è la Clara Wieck Schumann. Quindi è uno dei nomi più noti di questo universo ottocentesco e quindi considerata una tra le maggiori interprete del periodo. È stata una bambina prodigio e ha insegnato per oltre 60 anni. Dopo essersi sposata con Robert Schumann, con il quale peraltro ha avuto anche una fertile relazione nell'ambito musicale, ha smesso di suonare, dedicarsi alla famiglia, e 8 figli e il marito che tra l'altro poi è diventato anche bisognoso di cure perché è malato di una malattia nervosa. E, dopo la morte del marito ha ripreso l'attività come pianista e anche compositrice e poi ottenne successivamente, ora mi ero segnata la data ma me la sono persa, e la cattedra di pianoforte, la prima cattedra di pianoforte a Francoforte. Ed è stato un incarico che ha mantenuto appunto per 60 anni e lavorando come didatta ha dato un grandissimo contributo all'innovazione della musica moderna e della tecnica pianistica soprattutto. E, il primo pezzo che ascoltiamo è Sie liebten sich beide, si amavano entrambi, e è stato scritto su una poesia di Heinrich Heine. E è un testo abbastanza triste, diciamo, perché queste due persone si amano, ma nessuno dei due vuole ammetterlo all'altro, per cui alla fine c'è un po' la morte di questo amore, si lasciano e dicono che si vedono, si sono visti solo durante i sogni, nei sogni in pratica. E quindi ascoltiamo la Cinzia Purtelli che ci canta Sie liebten sich beide. Il 21 maggio del 1893, al quale parteciparono molte compositrici. Qui abbiamo dei commenti un pochino sgradevoli, ma diciamo lo stesso, perché nel suo libro Women in Music, il critico e giornalista americano George Upton individua nella loro disposizione il fallimento delle donne in musica. Dice: gli uomini controllano le loro emozioni e possono così esteriorizzare la musica. Nella donna le emozioni sono dominanti Ella può interpretarla e ispirarla, ma mai originarla, mai comporla nella sua forma più grande e piena. Carino questo qui, no? Vabbè, non c'è posto per tutti sotto il sole. Ich stehe auf das Blut. Destinando Fanny al ruolo di moglie e di madre. Un po' forse lo fece anche proprio per proteggere la figlia dalle critiche che le sarebbero piovute addosso se avesse continuato la carriera di musicista, perché come dicevo era ritenuta una carriera che non andasse bene per una donna per bene, appunto. Abbiamo un carteggio molto fitto di lettere tra Fanny e Felix. E Fanny si lamenta con il fratello dicendo un anno che non riesco a scrivere nemmeno una nota, lo dice con un tono veramente molto accorato, e d'altro canto si capisce che Felix stimava molto la sorella dal punto di vista musicale, tanto che c'è una lettera che per me è tristissima, in cui lui le racconta che ha tenuto un concerto e in questo concerto ha suonato un lead scritto da lei e questo lead è piaciuto tantissimo. A me sembrava una cosa veramente triste. Quindi questa, insomma, così è la vicenda di Fanny, è una vicenda molto triste e le lettere sono spesso molto accurate. Adesso sentiamo. Sì. Thank you. Cécile Chaminade, pianista, compositrice francese, fu ammessa al conservatorio, ma ecco qua, osteggiata dal padre, che non le permise di frequentarlo. Però Georges Bizet scoprì il talento innato di questa enfant prodige e la definiva il mio piccolo Mozart. Le procurò un insegnante privato e quindi lei compose tantissima musica strumentale, soprattutto per flauto e pianoforte, ma abbiamo anche tante belle romanze in francese e sono state tradotte anche in inglese, però noi le faremo in lingua originale. E la prima è questa Mignon. Mignon è la trasposizione in musica di una poesia di un poeta del Cinquecento, certo Pierre de Ronsard. E è una sorta di invito a godere del momento, perché la vita scorre velocemente, così come velocemente appassisce una rosa. Thank you. Joni Beach, che è una compositrice americana, nordamericana, nasce nel New Hampshire nel 1867, anche lei è un enfant prodige perché compone musica già a 4 anni senza l'ausilio del pianoforte, perché diceva che se la sentiva tutta nella testa. E, si è dovuta misurare anche lei con un certo numero di difficoltà, perché la madre assolutamente non voleva che lei facesse la musicista, era assolutamente oppositiva, e con un marito che non le impediva di comporre o di insegnare, ma non voleva assolutamente che si esibisse in pubblico. Lei quindi insegnò musica per molto tempo, pubblicò molta musica e pubblicò anche un manuale rivolto a giovani compositori, spiegando quali fossero, insomma, le regole che doveva seguire un giovane compositore. L'aria che ascolterete fra un po' si intitola Fairy Lullaby, ed è anche quella con cui ci congediamo da voi, ed è tratto da Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare, e qui la compositrice ha messo in musica la ninna nanna che le fate cantano alla regina Titania per farla addormentare. L'accesso a un livello avanzato degli studi di composizione. Sono grandi anche se, proprio perché donne, non hanno potuto assumere incarichi professionali, avere il controllo delle proprie finanze, pubblicare la loro musica, accedere a determinati spazi pubblici. Sono grandi anche se la loro musica è stata ridotta a teorie semplicistiche sulla musica maschile e femminile. E che altro? Dici tu una bella frase. Io ho trovato proprio stamattina, le mie studentesse hanno fatto una bella ricerca sulle donne nello sport e hanno citato Charlotte Whitton, che è stata una grande femminista degli anni 50 americana, e hanno concluso questa loro ricerca con questa frase: le donne devono fare qualunque cosa due volte meglio degli uomini per essere giudicate brave la metà. Per fortuna non è difficile. grazie a Alessia per la mia grazie a Cinzia, grazie alla biblioteca, al producer, grazie a Luigi Barlucci che ci ha prestato la tastiera, grazie a voi tutti per essere stati qua con noi. Grazie. Bravi. Magari un pubblico più numeroso, però ma è pubblico qualificato. Però, è anche un momento che abbiamo registrato anche in altre situazioni, con altre offerte di altro tipo. Non è stato così semplice riprendere dopo l'interruzione, ecco, quello sì. Però, insomma, grazie. Grazie a voi. Speriamo di rivedervi presto.